In questo lunedì 4 giugno, intanto uno sguardo ai titoli di apertura. Il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì si concentra sulle tasse, IMU e IRPEF spinte al massimo. È un monitoraggio sulle città capoluogo di regione che fanno capire che le addizionali locali spingono le tasse al massimo. Ebbene sì. C'è grande attenzione a quello che succederà in Europa e il rischio del crollo dell'Eurozona. Negli altri giornali, il Corriere della Sera, mini bond e fondo per le imprese, ultimatum alle regioni su centrali e rigassificatori, questo è il titolo sul piano crescita previsto dal governo. Per Repubblica, crisi, arriva al fondo salva banche. La Stampa, l'allarme di Passera, un italiano su due lotta contro la crisi. Per Il Messaggero, sviluppo, pronti gli incentivi. Per l'Unità, salvare l'euro e il lavoro. Mentre il giornale la butta in politica, resa dei conti a sinistra, il partito di Gomorra. Queste alcune delle aperture dei giornali. Io voglio partire su uno dei grandi classici, i temi che ci riportiamo avanti da mesi, la spending review, revisione della spesa per tutti gli umili che non accettano questa roboante spending review. Allora, Il Sole 24 Ore, a pagina 6, fa sapere che c'è la tabella di marcia, ormai è tutto pronto. E allora dai forbicioni, ora provate a pensare anche ai membri del governo, tra cui il ministro Giarda e il super consulente Bondi, che affianco ai forbicioni avrà anche un paio di anfibi militari pronto a marciare con la sua tabella di marcia, l'agenda in 7 tappe per centrare il target, così titola Il Sole 24 Ore, a pagina 6. Il 12 giugno la riunione del comitato interministeriale. Ma prima, tra l'altro, a me risultava che entro il 31 maggio, l'ho letto sui giornali la scorsa settimana, i ministeri dovevano presentare, e anche Giarda aveva scritto, cari colleghi ministri, presentate l'elenco di quello che dovrete fare come tagli. Ma è passato, siamo al 4 giugno, non ho letto nulla sui giornali. In ogni caso, vi segnalo due articoli, sempre sul Sole 24 Ore, Lionello Mancini, per quel che riguarda la giustizia, si concentra su tribunali e intercettazioni, la cura possibile alla giustizia con l'intervento del presidente aggiunto dell'ufficio dei GIP di Milano, Claudio Castelli, che parla e dice quelle che potrebbero essere le priorità dove tagliare, in primo luogo la geografia giudiziaria, irrazionale, costosa, e poi i temi che sanno tutti, intercettazioni, consulenze, guardianie, spese di notifica che costano oltre 600 milioni di all'anno, accumulano così debiti. Le intercettazioni telefoniche in particolare vanno gestite con un contratto unico nazionale, e ancora le spese al ministero, oggi suddiviso in 4 dipartimenti e 19 direzioni generali. Tutto questo serve ad aumentare ovviamente le poltrone. Insomma, si sa dove andare a tagliare, si sa. Comunque c'è tutto il calendario 2012, la tabella di marcia militare, marziale quasi, del governo, che procede a passi spediti verso una revisione della spesa certa e sicura. Bah. Allora, intanto vi segnalo anche su questo, sul Corriere della Sera, una pagina intera, pagina 5, ci si concentra sul tema sanità. E per esempio, in Italia, piccoli ospedali, sfida infinita perché non si riesce a chiuderli. Ci sono i piccoli ospedali in Italia che vengono chiusi, magari aperti dalla politica, chiusi ora da un'altra politica che si è resa conto che sono stati aperti magari per mettere una bandierina di consenso politico più che altro, ma a quel punto, una volta aperto un ospedale, si creano i comitati, si creano i cittadini furenti che fanno ricorso al TAR, e quindi se un politico tenta di chiuderli ora, i TAR e poi con i ricorsi li riaprono. E volete sapere quello che Margherita De Bac racconta? Beh, sul Corriere, in Abruzzo, Molise, Lazio, il Tribunale Amministrativo è intervenuto su strutture chiuse dagli enti locali, l'ultimo caso a Bracciano. Maggio 2011, il TAR Abruzzo annulla il programma del commissario Chiodi nella parte in cui viene programmato il taglio di 5 ospedali. È in corso una questione di legittimità costituzionale presso la Consulta. In Molise, con varie ordinanze, il Tribunale Amministrativo, a partire dal maggio 2011, ha sospeso il progetto di ridimensionare gli ospedali di Agnone, Venafro e Larino. In quest'ultimo caso è intervenuto il Consiglio di Stato. Nel Lazio, il commissario ad acta non è riuscito ad attuare il programma di chiusura dell'ospedale di Frascati, bloccato il provvedimento che riguardava Anagni. Insomma, si cercano di chiudere ospedali inutili, costosi, perché sono pochi posti letto. Certo, inutili non per chi vorrebbe l'ospedale sotto casa, come chi vorrebbe la posta sotto casa, la stazione dei carabinieri sotto casa, tutto sotto casa, e così si moltiplicano i costi. E invece, se si accorpassero questi ospedali dei posti letto miseri dal punto di vista numerico, magari si ridurrebbero i costi. C'è tra l'altro un'intervista al ministro della salute Balduzzi: interventi su 7 miliardi di spesa in beni e servizi. L'esordio di Balduzzi è uno di quegli esordi che non lascia davvero ben sperare. Spending review non significa tagliare, ma riqualificare. Pericolosissime queste frasi quando vengono dette. Non significa tagliare, avete capito? Ma riqualificare. Vogliamo intervenire con equilibrio, ha detto il ministro Balduzzi, cioè evitare i tagli lineari. Per esempio, non si toccheranno certo gli stipendi, non arriveremo a bloccare gli stipendi o a licenziare come in Grecia. Abbiamo già fatto tutto il possibile sul personale con il blocco del turnover. Certo, dove andare a colpire, per esempio, come aveva evidenziato in una classifica incredibile la scorsa settimana al Sole 24 Ore, se in una ASL una siringa costa 5 volte di più rispetto a un'altra, non c'è scampo, quello è uno spreco e va colpito. Almeno su questo siamo abbastanza tranquilli. Vabbè, tema spending review, chissà come andrà a finire. Intanto voglio andare a Genova, dove c'è già una polemica riguardo la nomina degli assessori del sindaco Doria. Il caso è sul Corriere della Sera, ma anche sul Secolo XIX, quotidiano principale di Genova. Genova, la giunta del doppio incarico che imbarazza Doria. La vicenda è questa: Doria ha detto, metterò gli assessori. Chi ha un doppio incarico fa l'assessore e deve lasciare il proprio lavoro. Ora, Francesco Oddone, presidente di DataSiel, neo assessore allo sviluppo economico, appena nominato, ha detto, non ci penso nemmeno a lasciare il mio lavoro. L'hanno costretto, di fatto gli hanno detto guardi, e l'ha lasciato. Ma ora c'è un secondo caso, quello di un avvocato 38enne, Isabella Lanzone, assessore al personale, esperta in gestione del personale della pubblica amministrazione. È un avvocato che è dirigente in aspettativa della ASL 3 di Genova e ha chiesto all'ASL di rientrare nei ranghi. Ma come? Ebbene sì, dice, io non posso fare un salto nel buio, fare l'assessore per 5 anni. Se esco 5 anni dal mio mercato, da dirigente dell'ASL di Genova, io poi rischio di rimanere tra 5 anni senza nulla. Al che verrebbe da dire non fare l'assessore, molto banalmente. Se queste sono le regole che lo stesso sindaco Doria ha stabilito. In ogni caso, Isabella Lanzone fa un'intervista al Secolo XIX. Potrei anche lasciare la giunta. Intanto dice... come è stata chiamata? Io voglio precisare che sono lontanissima dalla politica, non avevo mai visto, mai conosciuto Doria, anzi non l'ho neppure votato, fino a ieri abitavo a Udine e anche se fossi stata a Genova probabilmente non lo avrei votato. Ma cioè, questo è l'assessore del sindaco, ma come? Beh, sono delusa, disgustata dall'attuale sistema politico, dall'attuale sistema dei partiti. E come è arrivata a fare l'assessore? Ho mandato il curriculum, perché la mamma di un mio amico mi ha detto che il sindaco cercava donne con solide competenze tecniche per la sua giunta e Doria mi ha chiamato. Sì, però ora c'è la questione del doppio lavoro. Non posso star fuori dal mercato per 5 anni, lo ribadisce il neo assessore di Genova. Fare l'assessore senza un contratto con la mia professione metterebbe a rischio la mia carriera. Ma scusi, un incarico d'assessore non è un titolo di merito in più? Non direi. Anzi, qualcuno potrebbe pensare che ho lavorato grazie alla politica. Invece tutto quello che ho costruito l'ho costruito lavorando sodo e senza compromessi. Forse proprio per questo non sono amata. Insomma, l'assessore alla quale fa abbastanza schifo la politica, che è diventata assessore, che dice voglio rimanere dirigente perché non posso perdere 5 anni da assessore se uscendo dal mercato da dirigente. La soluzione, ripeto, è semplice: rinuncia a fare l'assessore, visto che le fa schifo la politica, e lasci spazio a qualcun altro. Noi ci sentiamo tra 5 minuti. Eccoci qua, allora, alle 7:36 minuti. Allora, il ministro allo sviluppo economico Corrado Passera, ministro anche un po' di altre cose, infrastrutture e trasporti. Comunque, ha fatto i conti ieri al Festival dell'Economia di Trento e ha detto che insomma sono circa 7 milioni di italiani tra i non occupati, i cassa integrati o quelli con lavori saltuari, quelli che hanno perso il posto di lavoro, quelli che non lo cercano neanche più. E contando che su queste persone si appoggiano circa, con una media così a spanne, 4 familiari, 7 per 4, 28, sono circa 28 milioni di italiani colpiti in qualche modo più o meno dalla crisi. E allora questo è l'allarme di Passera che ha lanciato ancora sulla crescita. Ormai il mantra del governo Monti è rilanciare, trovare qualcosa per rilanciare la crescita. A questo proposito il Corriere della Sera, pagina 3, presenta un'anticipazione, un decreto, quello che il governo sta studiando per rilanciare la crescita. Incentivi ed energia, ecco il primo pacchetto sviluppo. Inserita la norma per sbloccare gasdotti e rigassificatori fermati dalle regioni. Noi alle 8.20 avremo ospite anche il ministro dell'Ambiente Clini. Faremo sicuramente una domanda su questo. La norma più inattesa è quella che farà arrabbiare le regioni, racconta Antonella Baccaro sul Corriere, e che consentirà alla Presidenza del Consiglio di sbloccare la realizzazione degli impianti energetici, centrali e rigassificatori soprattutto. Quella che ha richiesto più impegno invece è il riordino degli incentivi esistenti e la loro confluenza in un fondo unico che garantirà alle imprese in un anno almeno 600 milioni di euro tra finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale per cofinanziamenti rispetto a fondi europei e regionali. Ecco le norme in arrivo nel Consiglio dei Ministri, forse mercoledì, forse venerdì prossimo, è il decreto crescita e quello infrastrutture. Saranno solo i primi provvedimenti di una serie. E allora, tra questo, sicuramente la norma che, scrive il Corriere, farà più discutere è proprio questa, la norma che accelera la realizzazione di infrastrutture energetiche vincendo l'inerzia delle regioni, nel caso in cui l'intesa regionale necessaria al Ministero per autorizzare l'infrastruttura o il diniego della stessa non intervenga anche dopo anni. E allora ci sono anche altri provvedimenti, ci sono i mini bond tra le innovazioni più interessanti, obbligazioni e cambiali che le imprese non quotate, medie e piccole, potranno emettere per finanziarsi, ma solo in presenza di alcuni requisiti: l'assistenza di uno sponsor, la certificazione dell'ultimo bilancio e la circolazione dei titoli tra investitori qualificati. Allora anche l'idea di mini bond per le imprese per trovare finanziamenti. E queste le idee per lo sviluppo, per la crescita, secondo il governo. Detto che sono momenti duri anche in Europa, momenti molto difficili in Europa. Secondo Repubblica, anche qui sono delle anticipazioni, viene definito come un retroscena, cioè un vero e proprio piano. Mentre noi ci arrabattiamo qui in Italia tra 28 milioni di italiani, cifra di Passera, che fanno i conti con la crisi, in Europa si discute di cosa succederà per le situazioni più difficili, vale a dire la Spagna e la Grecia, in primo piano. E secondo questo retroscena di Repubblica, pagina 3, con Andrea Tarquini, che lo descrive, c'è un vero e proprio piano segreto per salvare l'euro e l'Europa. Il titolo è Draghi, Van Rompuy, Barroso, l'unione politica e fiscale, poi possiamo lanciare gli eurobond. La trattativa segreta è questa. Attenzione, una trattativa che prevede 4 punti per salvare l'Europa e che prevede meno sovranità nazionale. Questo è il punto principale. Un piano articolato su 4 pilastri: più controllo sui bilanci nazionali, vigilanza a livello europeo sulle banche, politica finanziaria, fiscale, estera e di difesa comune e riforma dei sistemi sociali per un welfare uniforme. Tradotto vuol dire, cari italiani, perdere ancora di più in termini di sovranità degli stati singoli per dare più potere all'Unione centrale. E infatti la trattativa segreta per limitare la sovranità degli stati. Un'Europa più forte, con un'unione fiscale comune, con il monitoraggio delle banche a livello centrale, con anche una politica estera e di sicurezza comune. E insomma, che vuol dire? Vuol dire che viva l'Europa e deleghiamo tutto all'Europa. Questo è l'unico modo per salvarsi? Chi lo sa? Certo, questi sono i retroscena secondo Repubblica ai quali starebbero lavorando Mario Draghi, Van Rompuy, Barroso, appunto, i massimi vertici finanziari e politici europei per limitare i danni A proposito di danni, quando si parla di danni in Italia si parla di tasse. Vi segnalo due spunti. Il primo è una classifica che il Sole 24 Ore oggi mette, una triste classifica dei capoluoghi di provincia che in Italia hanno aggiunto l'addizionale locale, insomma i tributi locali, le scelte degli amministratori. Trovate tutto a pagina 3. Su IMU e IRPEF il sindaco non fa sconti. Nelle città capoluogo di provincia, in questo monitoraggio sul Sole 24 Ore, l'aliquota media sulle seconde case supera del 25% il livello base. Sale anche l'addizionale, insomma, da Aosta, Torino, Milano, Genova, analizzate tutti i capoluoghi di provincia e tutti aumentano la scelta più o meno uniforme di aumentare al massimo le addizionali locali, per cui già ci sono le tasse nazionali, poi i tributi locali, fate la somma, guardatevi il portafoglio e i portafogli e poi tirate un bel sospiro di sollievo, cari italiani. Intanto invece dalla Banca Italia viene un altro allarme, che è quello che riguarda le nostre automobili. Cioè, ormai avere un'automobile sembra diventata una cosa di lusso, a parte la questione della benzina, che ormai è una barzelletta, il fatto che oggi non è aumentata la benzina, ve lo dico, potete stare tranquilli. A Milano, per esempio, diluvia, uno potrebbe alzarsi con pessimo umore, ma non è aumentata la benzina. Ecco, già per oggi una buona notizia. Però avere l'auto, questo almeno certifica la Banca d'Italia, è ormai una stangata dietro l'altra, perché stangata sul bollo, stangata sull'RC auto, stangata sull'imposta stabilita dalle province, cresciuta del 17,5% per altri 2,3 miliardi, il bollo auto di competenza regionale è aumentato del 14,9%, tutti i dati di Banca Italia, tanto che La Stampa, a pagina 3 con Raffaele Zanotti, da comuni e regioni stangata sull'auto, e anche Il Messaggero, bollo e tasse RC auto nel 2011, aumenti record. Questa è la situazione economica anche con le tasse. Veniamo alla cronaca, alla politica. La cronaca si concentra molto sul viaggio del Papa, la visita a Milano che si è conclusa ieri per il Forum Mondiale sulle Famiglie. E tutti i giornali si concentrano sull'apertura del Papa ai divorziati, sostegno alla vostra fatica. Questo per esempio è il titolo del Corriere della Sera, pagina 12. Il problema dei divorziati risposati è una delle grandi sofferenze della Chiesa di oggi. Sappiate che il Papa, ha detto Benedetto XVI, e la Chiesa vi sostengono nella vostra fatica. Vi incoraggio a rimanere uniti alle vostre comunità e auspico che le diocesi realizzino adeguate iniziative di accoglienza e vicinanza. Certo, questo non vuol dire l'eucarestia. Su questo i dogmi della Chiesa sono precisi. I divorziati risposati non possono ricevere l'assoluzione e l'eucarestia. Su questo non è che il Papa potesse andare a una forzatura dei dogmi della Chiesa, certo, però c'è questa apertura che sicuramente apre forse a nuove prospettive. Ovviamente le aperture all'interno della Chiesa sono sempre molto molto lente. Certo, a fianco alla visita e al bagno di folla del Papa, 1 milione di persone, 850.000, chi le stimava, c'è invece tutto il tema dei corvi che si agitano sul Vaticano. Proprio ieri nuovi documenti sono apparsi su Repubblica. Oggi Repubblica torna a dire: il corvo scuote ancora la Santa Sede, vogliono colpire padre Georg, cioè il segretario Georg Genswein, il segretario del Papa. L'obiettivo è metterlo sotto ricatto. Il portavoce del Papa che dice, padre Lombardi, il capo della sala stampa, usciranno altri documenti. Insomma, c'è timore da una parte. Oggi, tra l'altro, è previsto l'interrogatorio del maggiordomo Paolo Gabriele, l'aiutante di camera, oggi in cella dopo 12 giorni con l'accusa di furto aggravato. Secondo il Corriere è una stretta sull'inchiesta e tra l'altro ci sono 4-5 nomi, una lista di possibili corvi in mano ai magistrati. Insomma, da una parte il bagno di folla, dall'altra il Vaticano scosso da questi documenti e scosso anche da un'altra vicenda che oggi riporta a pagina 15 il Corriere della Sera con un carattere esclusivo, una nuova pista su Emanuela Orlandi. Da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Il caso Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa quando aveva 15 anni, e mai più ritrovata? Ebbene, oggi il Corriere della Sera pubblica un documento, un'indagine con il sottotitolo esclusivo Orlandi, la trama che porta a Boston, addirittura con Fabrizio Peronacci. È un'intera pagina, pagina 15, Orlandi, la pista che porta a Boston, i legami con la città dello scandalo pedofili, sono un timbro postale, le telefonate dell'americano, colui che telefonava ai tempi del sequestro. Beh, in realtà c'è un filo robusto, racconta Peronacci, che collega la scomparsa di Emanuela Orlandi e di un'altra ragazza meno ricordata, Mirella Gregori, allo scandalo dei preti pedofili a Boston. La vicenda appunto del luglio 1983, c'erano le telefonate di quello che veniva definito l'americano, che faceva telefonate a casa Orlandi. In una di queste telefonate, tra l'altro, racconta il Corriere, racconta questo americano dei dettagli che solo la madre di Emanuela Orlandi sapeva, per esempio la marca della biancheria intima che indossava Mirella, anche l'altra ragazza sequestrata, una marca che solo la madre poteva conoscere. Ebbene, la busta, una delle buste, arriva in quei giorni dal timbro di partenza a Kenmore, la città di Kenmore. E ora, facendo un salto in avanti, processo 2002 agli scandali della pedofilia della diocesi di Boston, quando viene interrogato il cardinale Lowe, gli viene fatta una domanda su 32 uomini di un gruppo formato di un gruppo di pedofili chiamato Nambla. Per contattarlo, scrivere presso il Fagreg Box 331 Kenmore Station, Boston. Kenmore, quella stessa città da cui venne anche un timbro postale nel caso di Emanuela Orlandi. Ebbene, dunque, l'idea è questa. L'idea è che ci sia questo filo nella sequenza di omissioni e depistaggi che da sempre alimenta il giallo della ragazza Emanuela Orlandi, la pista di Boston 29 anni dopo fa balenare il più spaventoso e sconvolgente degli scenari, e cioè che ci sia appunto un legame tra il rapimento Emanuela Orlandi, il rapimento Mirella Gregori e questa associazione di pedofili che proprio da Kenmore, nella stessa città da dove provenne un timbro postale nel caso Emanuela Orlandi, avevano sede. Orlandi, la pista che porta a Boston, davvero sempre più misteriosa questa vicenda sulla quale mai si è saputo abbastanza. Veniamo alla politica italiana. La politica si anima per che cosa? Beh, c'è una Daniela Santanchè nel Popolo della Libertà che sta, no, facendo sfracelli, continua a fare interviste. Basta menate oggi sulla Stampa. Diciamo no alle leggi di Monti che vogliono alzare le tasse. Insiste, ha comprato paginate di pubblicità a dire non paghiamo l'IMU. Sono Giovanna d'Arco, dice Daniela Santanchè, che prima è stata messa al rogo e poi fatta santa, anche se io santa lo sono già di nome. La caccia alle streghe è stato un periodo oscurantista, non mi sento né una strega né una santa, ma una donna che si pone il problema degli elettori che ci hanno abbandonato. Intervistata da Medeo la mattina, dice ci vuole la svolta di Grillo, magari così recupereremmo quel 18% che nei sondaggi viene attribuito al Movimento 5 Stelle, mentre il PDL è sotto di 18 punti. Parla ancora di Berlusconi, Daniela Santanchè. Era e rimane un genio. È lui che deve tenere unito un grande movimento, che deve far giocare tutti. Insomma, una Daniela Santanchè che rilancia su questo. Il giornale titola pagina 3 «Cresce il partito anti-IMU, Monti assediato». Beh, forse con una certa enfasi. Qualcuno ironizzando ricorda anche il legame sentimentale tra il direttore del giornale e Daniela Santanchè. Sta di fatto che Daniela Santanchè è la più attiva nel centrodestra. Mentre invece, episodio curioso, chi non è riuscito a fermare Beppe Grillo, magari sono gli altri partiti, ma è riuscito a fermarlo un parroco molto agguerrito, il parroco di Alghero, perché Beppe Grillo era ad Alghero nei giorni scorsi a fare un comizio, perché lì si vota credo il 10-11 giugno, il sindaco era lì a sostenere il suo candidato sindaco. Ebbene, il parroco si è arrabbiato tantissimo, è uscito, è andato sul palco, perché il palco era sul vicino alla parrocchia, disturbi la messa, ha preso il microfono, gli ho detto... Sentite a pagina 17 del Corriere della Sera, articolo di Giovanna Cavalli. Gli ho detto a Beppe Grillo: senti un po', cocco bello, tu che parli di libertà, poi quella degli altri mica la rispetti, così non va bene, sai. Eccolo qui, esordisce padre Tonino Manca, indomito parroco di Santa Maria della Mercede, che sabato sera in tonaca bianca svolazzante è salito sul palco di Grillo per cantargliene quattro. Il fracasso era cominciato prima, nel rosario delle 18:30, la musica sparata a tutto volume, in chiesa non si capiva niente. E poi durante la liturgia ci hanno rotto i timpani. Dopo le canzoni è arrivato questo attrezzo che gridava è Beppe Grillo, no? E a un certo punto hanno fatto un duetto, no, Beppe Grillo, sembravano Don Peppone, Camillo e Don Peppone effettivamente. Schermaglia su orari, decibel, libertà, con tanto di rigido abbraccio finale. E Don Tonino Manca, che oggi dice: Grillo non è abituato ad essere contraddetto, ma quella è casa mia, quel piazzale è della parrocchia, poteva essere più educato, e l'ho sgridato come faccio coi ragazzi del complesso dell'oratorio quando suonano la chitarra troppo forte. Vabbè, insomma, il contrasto tra Don Tonino Manca e Beppe Grillo. Segnalo anche una bellissima pagina di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, pagina 26. Noi l'abbiamo chiamato il sindaco di Trapani, non ha voluto parlare, ma insisteremo, perché il sindaco di Trapani è nella polemica, perché 2 o 3 giorni fa ha detto una frase che lui ora smentisce, dicendo: a scuola non si deve parlare troppo di mafia perché i bambini non capiscono, si fa troppa pubblicità alla mafia. Il caso del sindaco che non parla di mafia, ora a Goffredo Buccini lui dice: non è vero, non ho detto quella frase, siamo partiti da una frase, siamo arrivati a un'altra frase dopo 4 giorni. Tra l'altro lui è un ex generale dei carabinieri, questo sindaco. Senta, io stavo a una manifestazione dei ragazzi alla scuola catalana e ho detto: bene, queste cose diffondono la cultura della legalità, ma io dico che certi spettacolini dove imbeccano i bambini con la parola mafia, quelli no, non mi piacciono. Quelli dove il bambino neanche si rende conto, gli mettono in bocca parole che non capisce. Lo sa che però certi contesti sono scivolosissimi, sindaco. E lui dice: parlo per esperienza, in ogni partito c'è qualcuno che ha contatti inopportuni, poi sta la coscienza di ciascuno, non bisogna fare allarmismi, ma vigiliamo. Certo, bisogna parlare di mafia, ma nei contesti giusti. Questo dice il sindaco di Trapani. Il caso del sindaco che non parla di mafia lo trovate sul Corriere a pagina 26. Ed ora Giornale Radio.